Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno, buona giornata a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento ogni sabato e ogni domenica con i settimanali e i mensili italiani, non solo italiani, talvolta facciamo anche qualche puntata oltre confine, segnalandovi le cose più interessanti o che ci sono parse più interessanti da leggere. Cominciamo parlando di case, perché su Panorama questa settimana si parla di momento favorevole per acquistare immobili. Casa ultima occasione, infatti, il titolo dell'articolo di Ilaria Molinari. Ci sono molte considerazioni che porterebbero appunto a questa convenienza nell'acquisto. È un argomento che naturalmente sia a Radio 24, in Salvadanaio, in Focus Economia viene affrontato molto spesso, sia naturalmente sul nostro quotidiano, sul Sole 24 Ore e sui vari prodotti come Plus. Torniamo a Panorama. Panorama dice: è il momento buono perché ci sono degli ottimisti appunto che tifano per acquistare un immobile, dicono il momento è favorevole perché c'è l'introduzione della cedolare secca sugli affitti, è una nuova imposta, ma per chi è già in regola, cioè abituato a pagare l'IRPEF sull'appartamento che dà in affitto, la cedolare può rappresentare un risparmio. Lo stiamo spiegando tra l'altro proprio in questi giorni sul Sole 24 Ore, lo spiegheremo ancora con un prodotto, una guida molto corposa che presenteremo lunedì. Vi voglio anche segnalare che tra l'altro di casa oggi Sole 24 Ore parla in modo diffuso, perché trovate in edicola Mondo Immobiliare che in una sua edizione particolarmente robusta. Ancora Panorama dice: gli ottimisti indossano la maglietta della cedolare secca, dice Ilaria Molinari, norme salva mutuo introdotte nel recente decreto sviluppo, la nuova imposta municipale unica che entrerà in vigore nel 2014 e poi infine naturalmente i prezzi al metro quadrato che in 2 anni risultano scesi in media del 10%, scrive sempre Ilaria Molinari su Panorama. E poi ci sono i tassi di interesse ancora bassi che rendono i prestiti per comprare casa poco costosi. Quindi gli ottimisti tirano forte dalla loro parte, suggeriscono di ricominciare a investire nel mattone, comprare un appartamento, andarci a vivere, iniziare a costruire un patrimonio. Ci sono però anche i pessimisti. E i pessimisti sventolano invece i vessilli della crisi economica ancora non superata, del rigore da parte delle banche che danno i finanziamenti con molta parsimonia e dello spettro anche dell'introduzione di un'imposta patrimoniale. Di questa in realtà si parla continuamente, ma poi in realtà non si arriva mai a un varo vero e proprio, sembra più un argomento di dibattito politico che non una reale necessità, almeno per il momento. E allora i pessimisti però dicono: meglio stare in affitto, investire i propri denari in prodotti finanziari. A riportare l'attenzione sul tanto amato mattone, continua Ilaria Molinari su Panorama, è stata l'introduzione della cedolare secca. Cos'è la cedolare secca? Vi dicevo prima, la tassa sugli affitti, è un'imposta che viene richiesta da sugli affitti, è nuovissima, è stata introdotta quest'anno. È stata introdotta, diciamo, completata dal recente decreto intitolato decreto sviluppo ed è pari al 21% dei canoni che si incassano in un anno, il 19% se si tratta di canone concordato. È un'unica imposta che ha il vantaggio di inglobare il registro e i bolli e che può essere scelta come alternativa all'inserimento dell'introito dell'affitto nella propria dichiarazione dei redditi. Tra l'altro vi voglio ricordare, entro lunedì prossimo, quindi dopodomani, chi dovesse ancora registrare un contratto di locazione deve scegliere se vuole aderire oppure no a questa nuova imposta, quindi fare i suoi conti, vedere quanto potrebbe costargli la dichiarazione, cioè l'IRPEF, e quanto invece potrebbe convenirgli la cedolare secca. Per maggiori particolari vi rimando soprattutto alle pagine Sole 24 Ore, anche perché ne stiamo parlando da parecchi giorni di questa imposta, ma già Panorama ci fornisce un'indicazione di massima: sicuramente risulta conveniente a chi ha un reddito superiore a 18.000 euro, perché oltre questa soglia appunto la cedolare secca sugli affitti dovrebbe essere conveniente. Questa l'indicazione, una delle molte indicazioni che trovate a favore dell'acquisto di immobili su Panorama di questa settimana. E La casa, si sa, è un investimento stabile, un investimento duraturo. Ci sono altre scelte durature di cui magari poi ci si pente. Ad esempio, sul venerdì, ieri, in edicola con Repubblica, un articolo di Sara Ficocelli che ci informa: erano tutti pazzi per il tatuaggio, adesso uno su tre si è pentito. A chiedere la cancellazione dei disegni sono soprattutto gli uomini intorno alla trentina, così dicono i chirurghi plastici, i quali però avvertono: il laser funziona, ma attenti ai reni. Nell'articolo, che ripeto traggo dal venerdì, ci sono anche dei numeri interessanti. Nel mondo, scrive Sara Ficocelli, ci sono circa 20 milioni di persone che hanno un tatuaggio. Non sempre però chi fa questa scelta poi le resta fedele per tutta la vita. Molti decidono di toglierlo e in Italia, come ha rivelato il chirurgo plastico Ezio Maria Nicodemi in occasione di un'esposizione che si chiamava International Tattoo Expo, il fenomeno del pentimento è in netta crescita, riguarda un italiano su tre. Chiede la cancellazione, come vi dicevo, soprattutto una persona di sesso maschile intorno alla trentina. Generalmente chiede di cancellare il tatuaggio per motivi che sono legati al lavoro, mentre le donne che vogliono cancellare un tattoo più spesso sono guidate da ragioni sentimentali. E poi ci sono gli innovatori, cioè quelli che decidono sì di cancellare un tatuaggio, ma per magari farselo rifare o farne rifare uno diverso in un altro punto, magari più o meno visibile, appunto secondo la scelta. Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. E questa è la voce meravigliosa di Billie Holiday in una incisione del 1941. Fa parte della antologia proprio dedicata a Billie Holiday, che è uno dei volumi appunto dei miti del jazz che vi stiamo proponendo da qualche settimana. Usiamo, se avete già sentito magari questa trasmissione nelle puntate scorse, usiamo un po' questi CD per ascoltare un po' di buona musica. In fondo si tratta pur sempre di un magazine, cioè di qualcosa che ha una periodicità, ma ci dà la possibilità di farvi ascoltare almeno un assaggio di queste grandi voci. Billie Holiday, tra l'altro, cantante dalla vita molto tormentata, per usare un eufemismo, nata nel 1915, morta giovane nel 1959, fu attiva soprattutto negli anni gli anni 30 e negli anni 40, e tutte queste indicazioni sulla sua vita naturalmente le ho tratte dal libretto che accompagna questo CD di cui vi abbiamo fatto sentire un brano. Questo brano, appunto, come vi dicevo, è stato inciso nel 1941. E allora, cantava Georgia on my mind. Cosa c'è nella nostra mente adesso? Probabilmente un po' troppe cose, perché i recenti fatti di cronaca, che purtroppo hanno interessato dei bambini molto piccoli, dimenticati dai genitori, dimenticati nelle macchine, nelle automobili dai genitori, hanno suscitato più di un articolo sui magazine di questa settimana. Ne trovate diversi. Mi sembra interessante la riflessione che ci propone Giorgio Ierano su Panorama, perché sostanzialmente si concentra sul fatto che facciamo troppe cose nello stesso momento, quindi in my mind, nella nostra mente, in our mind, c'è davvero un po' troppa roba. Il tempo è diventato un'ossessione, scrive Ierano, che ci sfugge di mano, può perfino farci dimenticare un figlio nell'auto. Occorre misurarsi coi nuovi ritmi della nostra esistenza e liberarsi dalla schiavitù. Sappiamo tutti, abbiamo sentito tutti appunto di questi casi di cronaca. Io vi voglio proporre il colloquio che viene segnalato su Panorama con Domenico De Masi, sociologo. De Masi ci invita a recuperare il lusso delle pause e ci porta a questi dati che mi sembra possano essere molto utili. 100 anni fa mio nonno, dice De Masi, medico in una cittadina di provincia del sud, aveva un'aspettativa di vita media di 350.000 ore. Oggi viviamo il doppio, ma con un paradosso. Abbiamo più tempo e ci sembra di averne sempre meno a disposizione. A ragionare il sociologo Domenico De Masi. De Masi, tra l'altro, ha appena scritto un libro che si intitola Il tempo è un fanciullo che gioca. La frase è di Eraclito, ma per De Masi, spiega Donatella Marino, che lo ha intervistato per Panorama, significa che il tempo gioca con le persone. A volte distrae, a volte impegna, altre volte sfugge. Non è, insomma, dice De Masi, una cosa lineare, bisogna imparare a capirlo, a gestirlo, a domarlo, soprattutto a goderlo. Cosa che invece abbiamo disimparato a fare. Sempre il nonno, per seguire l'esempio di De Masi, aveva meno tempo libero di quanto ne abbiamo noi ora, 150.000 ore, adesso si calcola che ne abbiamo circa 230.000 nel corso della nostra vita, eppure si annoiava. Oggi siamo più liberi e siamo più stressati. Rispetto a 100 anni fa abbiamo a disposizione almeno 4 tipi di strumenti che dovrebbero aiutarci ad avere più ore a disposizione, perché c'è il treno veloce, c'è internet, ci sono apparecchi per fare più cose contemporaneamente, dall'auricolare per telefonare fino agli SMS che si possono spedire quando è in riunione. Il tempo si può immagazzinare con un videoregistratore, ad esempio. Insomma, abbiamo più tempo perché viviamo di più e perché abbiamo macchine che ce lo fanno gestire. Eppure sentiamo spesso il terreno mancarci sotto i piedi. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di questo tempo così affollato in cui viviamo. Abbiamo più tempo a disposizione di quanto ne avessero i nostri nonni, ma lo gestiamo molto peggio, anzi abbiamo l'impressione di averne molto meno, e abbiamo perso, diceva appunto De Masi a Panorama, anche la capacità di annoiarci qualche volta, cioè di perdere un po' di tempo. C'è un esempio su Panorama che può aiutare in tema, tra l'altro, con le informazioni sul traffico che abbiamo appena ascoltato. Soltanto fino a 20 anni fa, ricorda Panorama, un impiegato che andava al lavoro in auto mentre guidava poteva al massimo ascoltare la radio. Oggi questo stesso impiegato, mentre guida, può telefonare a un collega, inviare una mail con lo smartphone, leggere gli SMS, prestare magari attenzione al navigatore satellitare. Ecco, di questo tema, tra l'altro, cioè di quanto stanno diventando iperconnesse le nostre automobili, si occupa anche l'Espresso, con un articolo di Emanuele Cohen, che però ci invita soprattutto ad essere prudente. Dice: cellulari, SMS, internet e TV, c'è sempre più tecnologia dentro le automobili, ma gli incidenti poi aumentano. Perché? Perché forse sottovalutiamo anche tutti quanti, perché poi ognuno di noi è portato a qualche una di queste infrazioni mentre guida, sottovalutiamo però quanta distrazione comporta appunto dedicarsi ad altre attività. Dice ad esempio Cohen nel suo attacco dell'articolo: il cellulare squilla mentre la berlina sfreccia in autostrada a 110 km orari. L'automobilista distoglie lo sguardo dalla corsia in cerca del telefonino, lo impugna per verificare chi sta chiamando, ma a quella velocità pochi istanti di disattenzione equivalgono a guidare per 90 metri con gli occhi bendati. Distanze che naturalmente vanno poi moltiplicate se si invia un SMS, si invia una mail, addirittura si guarda un film. Questo mi pare un po' inverosimile, ma non escludo che qualche auto possa già proporlo, o una partita di calcio. Sono gesti banali che, dice Cohen, diventano poi atti di pura follia. Eppure la corsa alla tecnologia non conosce ostacoli. Sempre più spesso automobili, taxi, furgoni, tir, persino i bus vengono trasformati in stazioni multimediali sofisticate e inzeppate di gadget, lettori DVD, navigatori satellitari, computer portatili connessi al web, integrati nei comandi e monitor TV. Così chi guida si vede costretto a un multitasking, cioè a fare più cose contemporaneamente, via via più spericolato e rallentando soprattutto i tempi di reazione, mentre i produttori di automobili e i giganti del software naturalmente spingono in maniera assolutamente legale per la massima diffusione della tecnologia. Tra l'altro esistono anche in commercio dei sistemi di tuning, si potrebbe dire, cioè di adattamento successivo delle automobili per migliorare anche la già robusta dotazione tecnologica, magari di connessioni. Spiega appunto questo esempio: l'11 marzo scorso, cioè il giorno in cui è stato lanciato l'iPad 2 negli Stati Uniti, su YouTube c'era un video di 8 minuti che spiegava passo dopo passo come smontare la plancia su un pick up, sul Ford 150, e poterla modificare per metterci proprio l'iPad 2 che era uscito il giorno stesso, quindi guidare con l'iPad inserito nel cruscotto. E naturalmente poi ci sta anche qualche disattenzione più colpevole. È stato fatto un sondaggio, riferisce Coin, un sondaggio fatto da ISPO, gli italiani rispetto delle regole. Nel 91% dei casi chi ha risposto ha detto che non giustifica assolutamente la violazione delle norme del codice della strada, però poi il 70% ha dichiarato di infrangere regolarmente più di un divieto appunto imposto dal codice della strada. Tra i divieti più infranti, i limiti di velocità, l'uso delle cinture e non infrequente la distrazione al volante. Qui c'è anche qualche testimone appunto dell'ANIA, cioè dell'associazione delle assicurazioni, che sbotta a un certo punto dicendo a Coin: ma non capisco perché chi sborsa 80.000 euro per comprarsi un SUV poi non riesca a spenderne 12 per comperarsi un auricolare. Effettivamente è un po' difficile capire perché uno si metta da solo in una condizione di difficoltà, però voglio restare a parlarvi di traffico prendendo da un mensile che si chiama E è il magazine, il mensile, che fa capo, come dire, a Peace Reporter. Peace Reporter è il quotidiano online appunto che si occupa di temi, di tematiche sociali un po' in tutto il mondo. Il direttore di E, che è arrivato al terzo numero, se non sbaglio, con questo di giugno che trovate in edicola, il direttore di E, che è Gianni Mura, propone una riflessione un po' diversa dai temi abituali della rivista, dedicata ai ciclisti da marciapiede. È una riflessione, vi devo avvertire, magari non molto politically correct, ma che può essere utile. Dice: sarà una mia impressione, scrive Mura su E, o un mio incubo metropolitano, ma a Milano molti ciclisti stanno diventando carnivori. Potrei usare un aggettivo meno ambiguo, voglio dire incattiviti, aggressivi, incarogniti, scorretti. Io per abitudine alla pedalata, almeno finché non sono arrivato a vivere in città e poi sono arrivato anche al Quintale, scrive Mura, ho sempre visto i ciclisti come esseri miti e insieme coraggiosi, perché un conto è pedalare a Gualtieri sull'argine del Po e un conto in corso Buenos Aires. Insomma, ciclisti erbivori come dei grandi sauri. Oltre alle pedalate mi soccorrevano le letture, Probici, Oriani, Stecchetti, Panzini, Buzzati, Malaparte, Brera e così via, e anche le canzoni da bici, da Yves Montand, da Luca Ghielmetti. Nella mia zona, però, vicino alla stazione centrale, già due vecchiette sono state stirate da ciclisti sul marciapiede e quanto a me l'ho schivata di un pelo. Sentendo un forte scampanellio, riferisce Mura, mi sono spostato a destra mentre il ciclista carnivoro, provvisto di casco, passava in tromba a sinistra. Bingo, ma di pura fortuna, perché lui non sapeva da che parte mi sarei spostato, io non avevo il tempo di controllare la sua direzione. E poi, se i nomi hanno un senso, un marciapiede è riservato a chi cammina a piedi, pratica antichissima e non ancora vietata, anche se si può pensare che chi va a piedi è un povero disgraziato, l'ultimo anello della catena, o forse un povero e basta, dunque automaticamente sospetto e privo di diritti. In parole povere, appunto, è calpestabile. Il marciapiede in francese, d'altra parte, continua Mura, fa pensare a una roba per cavalli, infatti si dice trottoir. Una scampanellata sul marciapiede è più credibile della sirena di un catamarano a Milano, e già un ciclista che suona il campanello, va detto, conserva tracce da erbivoro perché avvisa. I più, nemmeno quello, poi ti guardano con molta severità, come a chiederti che cosa ci stai a fare tu sulla loro strada, ed è in questo momento che si percepisce il carnivoro dalla sua certezza di crociato. Il signore degli asfalti è con lui. Beh, ironico, sarcastico se volete, però è vero che la diffusione di questa moda, se così si può dire, di viaggiare in bicicletta sul marciapiede comporta anche dei rischi non indifferenti, specialmente per chi sui marciapiedi si ostina a camminarci appunto a piedi, come suggerisce la parola stessa e come ricorda anche Gianni Mura su E di questo numero in edicola. E allora il tempo a nostra disposizione mi sta quasi finendo, mi fa segno appunto Pietro Lacorte dall'altra parte del vetro questa mattina. Allora io voglio concludere questa puntata con un'anticipazione, con qualcosa che non c'è ancora in edicola ma ci sarà domani per la precisione, e domani avremo il terzo dei racconti d'autore che stiamo presentando con il Sole 24 Ore. Questa volta l'autore è Luis Sepúlveda, probabilmente avete letto di lui La storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, o Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, sono i suoi titoli di maggiore successo. Sepúlveda, cileno, nato in Cile nel 49, fu anche incarcerato tra l'altro per attività politica dal regime di Pinochet. Tutto questo lo troverete domani sul libretto, che però io già sono riuscito a procurarmi e di cui vi do un breve assaggio in cui si racconta appunto di questo killer sentimentale, perché il titolo è proprio questo: diario di un killer sentimentale che arriva in albergo e riceve le istruzioni per la persona appunto che deve liquidare, che deve uccidere. Alla reception dell'albergo, così scrive Sepúlveda, mi consegnarono le chiavi e una busta che aprì nell'ascensore. Dentro c'era la foto di un tipo che non mi piacque, giovane, sui 35 anni, snello, bella presenza, seduto davanti a un lungo tavolo in compagnia di altre 5 tizi che gli assomigliavano, e c'era un cartello che diceva terzo incontro delle organizzazioni non governative. Non mi sono mai piaciuti i filantropi e quel tipo puzzava di moderna filantropia. Un minimo di etica vieta di chiedere cosa hanno combinato i tipi che uno deve liquidare, ma guardando la foto provai della curiosità e la cosa mi dette fastidio. Questo è uno l'attacco del libro di Sepúlveda che troverete domani con il Sole 24 Ore. Il racconto si intitola Diario di un killer sentimentale, un killer che infrange diverse poi delle regole appunto etiche, se si può dire così, del suo mestiere. E con questa segnalazione, con questa anticipazione, concludiamo la nostra puntata. Magazine 24 ritorna domani. Grazie ancora a Pietro Lacorte, grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare anche questa puntata. A domani.